Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti a una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend, che si apre come di consueto con la copertina, che è dedicata oggi al World No Tobacco Day, la giornata mondiale senza tabacco. Si celebra domani. È una giornata che dal 1987 è un appuntamento internazionale che ha proprio l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'impatto negativo del fumo attivo e passivo sulla salute di tutti. Una giornata che durante l'emergenza Covid assume un significato ancora più particolare ed è stato ben fotografato da una ricerca di cui voglio parlarvi. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Marco Aloisio, chirurgo toracico di Humanitas, docente all'Humanitas University e presidente della LILT Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, la giornata che si celebra domani, insomma, di questi tempi assume un significato molto importante, è un invito a smettere e a pensare di smettere. Voi avete condotto una ricerca su fumo e Covid-19 che rivela come il lockdown non abbia modificato in modo significativo il consumo di sigarette, ma abbia invece inciso sulla motivazione a smettere di fumare nella fase 2. Professor Aloisio, possiamo partire da qui? Sì, direi che questa è esattamente la fotografia dello studio che noi abbiamo fatto in collaborazione con SVG sugli impatti sulla percezione della salute e sui comportamenti dei fumatori in questo periodo di coronavirus. Abbiamo anche detto niente sarà più come prima, sì, e io smetto di fumare, per cui abbiamo collegato la 32esima giornata mondiale senza tabacco in un momento di una pandemia che ha reso tutto molto diverso. Ecco, giustamente come ha detto, l'indagine ha rivelato che il lockdown non ha modificato in maniera significativa le abitudini degli italiani, soprattutto nella fase 1 addirittura i fumatori non si sono sentiti vulnerabili perché tutte le informazioni si sono rivolte più sull'età dei pazienti, sulle patologie cardiovascolari e respiratorie in genere come fattori di rischio per ammalare di coronavirus. Per cui i fumatori si sono sentiti erroneamente protetti. Però, interessante, per la fase 2 la prospettiva dei fumatori è quella di ridurre il consumo abituale o di smettere completamente di fumare. Infatti il 38% dei fumatori lombardi, e se guardiamo Milano e Monza Brianza il 43%, si è proposta come per avere un comportamento più virtuoso. Per cui è una nuova fase, per cui superato lo stress generato da pandemia e lockdown forzato, sì, potrebbe essere rivolta una maggiore attenzione dei fumatori all'ascolto di messaggi utili, perché noi siamo qui pronti a darlo, perché comunque in Italia ci sono 12 milioni di fumatori, comunque le patologie e le neoplasie polmonari e tutte quelle fumocorrelate sono presenti, per cui non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Anche perché, professor Aloisio, la pandemia ci ha aiutato anche a riflettere sull'importanza di avere polmoni sani. Questo è correttissimo, infatti, e non lo sappiamo ancora come sarà, ma gli effetti collaterali a distanza, a medio termine, a lungo termine, di queste interstiziopatie da coronavirus probabilmente lasceranno dei reliquati nei nostri polmoni che sono come delle cicatrici, cioè una fibrosi polmonare, per cui una ridotta ossigenazione dei tessuti, per cui se a questo noi aggiungiamo il fumo di sigaretta o altre erronee abitudini di vita, potremmo creare delle situazioni in cui la qualità di vita sicuramente va ad essere nettamente seriamente compromessa. Professor Aloisio, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. A presto. Grazie a voi. Non ha fumato, continua ad essere un fumatore sospeso, il nostro Mauro di Smetti con Mauro, che è in linea con noi. Mauro! Buongiorno amico, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto alle sorelle fumatrici e ai fratelli fumatori. Sai che io, come hai detto giustamente, mi reputo ancora un fumatore, ancorché non in esercizio. Oramai da diversi mesi, però, devo dire. Senti, ma noi abbiamo presentato, ci ha raccontato il professor Aloisi un po' di questa fotografia che ha scattato la loro indagine sul fumo ai tempi del Covid-19 e al tempo del lockdown. Per te com'è andata? Ma devo dire... Mauro! Io faccio sempre il tifo per te e per tutti i tuoi fratelli e le sorelle fumatrici. O ex fumatrici. Sono in procinto di diventare ex fumatori ed ex fumatrici. Io mi sono sentito più sollevato, devo dire, perché questa cosa, si sono diffuse anche delle fake news, scusa se uso queste parolacce, ma insomma, no, dimmi pure. Sì. Ecco, per cui si diceva, ah no, ma guardate, i fumatori sono più protetti, cioè adesso va bene, vorrei tacere questo aspetto. No, adesso tra poco arriva la banda, perché ecco, abbiamo naturalmente il dottor Roberto Boffi, dell'Istituto Nazionale dei Tumori, la dottoressa Munarini. Dei giornalisti per aver diffuso cose di questo genere, insomma, no, e quindi mi sono sentito un po' più sollevato perché dico, vabbè, almeno in questo momento io non sto fumando, insomma, un po' qualche disagio magari me lo evito, però devo dire, mi sono sentito anche un po' sollevato. Certo, faceva strano vedere tutto chiuso quasi e i tabaccai aperti, ecco, per un fumatore in sospeso era uno spettacolo inatteso, ecco, non aumentava la tentazione, devo dire, ai miei fratelli e sorelle, eh. Uno lo guarda e considera, pensa un po', lasciano aperto i tabaccai, basta, questo è il pensiero che ho fatto. Mauro, tu sei diventato un po' il nostro eroe perché molti hanno seguito il tuo esempio, ma si dice, tu hai avuto forza, determinazione, sei stato bravo, si dice, no? Per smettere di fumare ci vuole testa intesa come impegno, determinazione, forza di volontà, si dice così, e a volte questo diventa una scusa per non provare a smettere, quasi che ci fossero delle persone attrezzate per farlo e altre incapaci, condannate alla dipendenza. Ma è davvero così? Buongiorno alla dottoressa Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano presso il Centro Antifumo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Si riforma la squadra di Smetti con Mauro. Mauro ce l'abbiamo. C'è lei, è già in collegamento il nostro dottor Roberto Boffi, direttore del Centro Antifumo. Buongiorno dottor Boffi. Eccomi, sono qua, buongiorno a tutti. Oltre che responsabile di pneumologia, dottoressa Munarini, per smettere ci vuole testa? Sì, testa ci vuole assolutamente, ma direi che ci vuole anche cuore, come in tutte le cose importanti e che devono venire bene della vita. Perché parlo di cuore? Perché il momento giusto per smettere è quello in cui ti senti di provarci. I fumatori noi li suddividiamo in categorie, tra l'altro gli ascoltatori possono anche facilmente posizionarsi dentro queste categorie. Cioè c'è chi non pensa di smettere, per cui l'ascoltatore che dice non è il momento, appena sente l'argomento, noi diciamo che è nella fase di precontemplazione. Quello che dice vorrei ma tanto non è il momento, ma ci pensa, nella fase di contemplazione. Poi ci sono invece quelli che sono già in una fase di determinazione, cioè hanno deciso che lo faranno e agiranno. Quindi già possiamo dire che c'è chi è in questa fase dove non ha appunto da spendersi in questo e chi invece si sente di farlo. Ma che cosa determina perché uno si sente di farlo o non si sente di farlo? Perché, come dici tu, c'è qualcuno che sembra non poterlo mai fare. Allora, sono due le cose che contano e anche queste sono anche molto di cuore. Allora fermiamoci qua. Due cose che contano. Le sapete? Le conoscete? Le avete scoperte? Mauro le sa, probabilmente. Noi ci fermiamo, ma ritorniamo con la squadra di Smetti con Mauro. Mauro! Obiettivo Salute Weekend. Dottoressa Munarini, eccoci di nuovo insieme. Veloci, siamo tornati per svelare i due ingredienti del momento giusto per smettere di fumare. Fantastico. Allora, domani ricordiamo una giornata importantissima, giornata mondiale senza tabacco. Voilà, andiamo. Allora, il primo è che l'importanza che si attribuisce a questa cosa, cioè lo devi desiderare, deve essere in quel momento della tua vita, in questo momento della tua vita, la cosa che più desideri, e questo desiderio può essere mosso dalle più svariate cose: ti è successo qualcosa di brutto e quindi hai deciso di smettere, ti succede qualcosa di bello, oppure anche che attribuisce allo smettere di fumare una svolta della tua vita, quindi prima cosa di cuore deve essere per te importante. La seconda è che devi pensare di poterci riuscire, questo è il fattore che molto spesso blocca di più, quando dici persone non attrezzate, persone come non potessero mai liberarsi, sono quelle che non vedono la possibilità, o perché pensano proprio di non poter fare, non riuscire a smettere, oppure perché pensano di non poter fare la loro vita senza le sigarette. Sì. In questo caso che cos'è che alimenta la fiducia? L'incontro con qualcuno, come può essere la storia di Mauro, che ti fa vedere come ha fatto lui e quindi dove non vedi una strada la vedi anche tu, oppure l'incontro, se qualcuno ha la forza di chiedere aiuto, con un esperto che ti fa vedere come superare gli ostacoli e quindi la strada di nuovo te la fa vedere. Chi non ce la fa da solo si faccia un regalo grande, lo faccia oggi, chieda aiuto al proprio medico di medicina generale, si può recare in un centro antifumo, sulla nostra pagina trovate tutto l'elenco. Dottor Boffi, le soluzioni ci sono, l'offerta è tale da permettere una terapia personalizzata e profilata, direi, sulle caratteristiche del singolo fumatore. È corretto, dottor Boffi? Poi sentiamo ancora Mauro. Sì, è corretto, perché diciamo che nelle novità che ci ha portato l'ultimo anno, dal World No Tobacco Day 2019 a quello di domani, ce ne sono state alcune veramente importanti in campo di cessazione del fumo. La ricerca sta andando avanti in termini di cosiddetta target therapy, cioè la medicina personalizzata, che è un orientamento ormai generalizzato nella ricerca scientifica, anche nella smoking cessation, quindi sempre più si è verificato, e noi all'Istituto di Tumori in questo siamo veramente all'avanguardia, perché dall'autunno scorso facciamo a tutti i fumatori che vengono al nostro centro antifumo un'analisi con un semplice prelievo del sangue del genotipo per valutare i polimorfismi e correlare questo, oltre allo stato infiammatorio generale dell'organismo, correlare questi profili genetici con la risposta, quindi l'efficacia alle terapie antifumo, in questa maniera cercare un percorso sempre più individuale per quel tipo particolare di fumatore. Proprio è una bella adattato, notizia. Sì, cucito su misura. Mauro. Qualsiasi sia il motivo, magari siamo anche soltanto stufi di fumare, perché può capitare, cari fratelli fumatori, diciamocelo, e non bisogna pensare di essere deboli perché ci si fa aiutare, come diceva la dottoressa Monarini, anzi uno è forte quando si fa aiutare. Certo. E io devo dire che aggiungerei alla gratitudine che tutti noi dobbiamo ai medici in questo momento, in queste settimane di coronavirus, la mia personale gratitudine, perché effettivamente mi hanno aiutato. E devo dire, poi uno, ma tu dico sottovoce, sta meglio, anche tra parentesi sempre, ricordiamocelo, però sta meglio, non dico altro. Non dire altro, ma io invece voglio ricordare il tema che è stato scelto dall'OMS per questa edizione, il segreto è svelato, e proprio l'obiettivo, dottor Boffi, di questa campagna 2020 è informare i giovani, i più giovani, sulle strategie che l'industria del tabacco mette in atto per attrarre nuovi consumatori, no? In particolare attraverso attività di marketing mirate, attraverso i social media, a questo voi vi siete ispirati nell'organizzare un grande evento a cui insomma sono contenta di aver partecipato, un evento che l'Istituto Nazionale dei Tumori ha organizzato insieme alla De Agostini Scuola, a cui hanno partecipato tantissimi ragazzi, i loro insegnanti, perché proprio questa edizione sembra rivolta specificatamente ai ragazzi che iniziano a fumare, ci sono dei dati impressionanti, da giovanissimi, e poi nel corso della vita ci si ammala, dottor Boffi. Per quanto esempio guarda, Smoking Cessation, un'altra novità è la rimborsabilità dei farmaci antifumo sia all'interno dei programmi di screening che all'interno di un percorso di disossefazione dei centri antifumo, quindi anche l'alibi diciamo economica viene un po' a cadere. E al contrario invece per quanto riguarda i giovani, l'aumento del prezzo delle sigarette anche da una recente inchiesta commissionata dalla Fondazione Umberto Veronesi sui ragazzi, sugli adolescenti, ha dimostrato che potrebbe essere realmente un deterrente, perché non è possibile andare avanti così, cioè il dato del 40% di adolescenti che fumano, oltre a, senza contare gli utilizzatori di sigarette elettroniche e di prodotti al tabacco riscaldato, è una percentuale agghiacciante che rischia quindi di condannare milioni e milioni di generazioni future a questa dipendenza e ai danni che il fumo provoca. Ha ragione Mauro a parlare di fake news. Il lockdown e comunque la pandemia ha dimostrato che il fumatore, dati degli studi che finora sono usciti, tende ad avere statisticamente delle diciamo componenti polmonari di questa infezione virale più serie, grave, certo. E quindi anche questa tragedia che abbiamo vissuto tutti ha dimostrato che il fumo sicuramente non può essere una e forse un alibi. Ci ha responsabilizzato anche un po' sull'importanza di proteggere la nostra salute, e abbiamo capito che proteggendo la nostra salute proteggiamo anche quella degli altri. Questo è vero anche per il fumo passivo, lo sappiamo, danneggia anche le persone che lo respirano, lo inalano senza essere fumatori. Dottor Boffi, noi abbiamo pubblicato uno studio con i colleghi irlandesi, in particolare capofila su 60 persone affette da BPCO e da asma e messe in ambienti fumosi, quindi sì, con molti fumatori, ma all'aperto, badiamo bene, quindi in all'aperto, dove si può fumare, sì, in Irlanda sì, come in Italia, mi certo, vengono in mente sotto le pensiline alle fermate dei mezzi pubblici, sì. Ebbene, gli asmatici, in particolare le asmatiche, quindi le donne che soffrono già di asma bronchiale, hanno avuto anche in acuto, quindi con una breve esposizione alle sigarette, una riduzione della loro capacità respiratoria. Ecco, quindi la dice noi ci lunga. Preoccupiamo tanto, giustamente, insomma, dell'esposizione a una persona potenzialmente contagiosa per il coronavirus, certo, però dobbiamo pensare anche ai nostri polmoni di fianco a un fumatore. Allora, io saluto e ringrazio la squadra di Smetti con Mauro, grazie per essere stati con noi, e noi continuiamo il nostro appuntamento, il nostro allenamento con il team di psicologi di Engage Minds Hub. Entra Obiettivo Salute Weekend la professoressa Gwendalina Graffigna, che è ordinario di psicologia dei consumi e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che da settimane ci sta allenando con esercizi specifici per renderci e attrezzarci, quindi renderci capaci ad affrontare il cambiamento con cui dobbiamo misurarci inevitabilmente per costruire una nuova normalità. Professoressa Graffigna, buongiorno. Ormai l'associamo a Rocky. Buongiorno, allora. Mi dà la carica per salutarvi. Siamo quasi alla fine di questo percorso, per cui la parola di quest'oggi va proprio a fagiolo, perché noi oggi parliamo di automonitoraggio, o meglio monitoraggio. Vi ricorderete che stiamo lavorando sull'acronimo della parola engagement, che è una parola scientifica che proprio qualifica il modo con cui ci si può adattare in modo positivo e proattivo nella prevenzione e nella gestione della propria salute. E allora abbiamo fatto un po' questo excursus delle varie lettere ed oggi siamo arrivati alla M, che sta per monitoraggio. E il messaggio un po' psicologico e positivo che voglio passarvi oggi è quello che c'è la possibilità di acquisire un maggiore senso di controllo su di sé, ma anche sugli eventi che ci riguardano, proprio quando assumiamo un po' questi strumenti di attenzione, di monitoraggio. È anche importante riuscire a monitorare le nostre emozioni, ma anche proprio per regolare sfruttarle al meglio, per non rimanere sopraffatti dagli eventi e quindi riuscire a, in quello che scientificamente in psicologia si chiama coping, cioè riuscire ad adattarsi in modo flessibile ed efficace ai cambiamenti. Questa volta abbiamo proprio preparato per voi un test specifico, è un test scientifico di monitoraggio proprio un po' del nostro umore, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni in questa situazione di emergenza. E allora provate a farlo, provate a ottenere il vostro profilo, il profilo emotivo, e così poi ci dite la prossima volta se scoprite qualcosa di nuovo su di voi. Il monitoraggio può essere anche proprio un'occasione per autoesaminarsi, per scoprire qualcosa di sé, o dall'altra parte se comunque può essere uno strumento per avere un controllo, quindi una autoregolazione delle nostre emozioni e delle nostre difficoltà. Grazie professoressa Graffigna, sicuramente vi invito a fare il test, trovate tutto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, in cui abbiamo naturalmente linkato il centro di ricerca di cui la professoressa Graffigna è direttore, Engage Minds Hub. Professoressa Graffigna, grazie, ci testiamo, poi ne parliamo e continuiamo ad allenarci. Intanto buon sabato. A presto, alla prossima. Noi invece ci sentiamo domani alle 12. A proposito di umore, di buon umore, ho una sorpresa per voi. Una mente felice. Si può. Vi aspetto alla tavola della bufala in tavola domani alle 12. Ringrazio Roberta Frisani, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Ci sentiamo domani. Buon sabato.